Salva Danaio di Deborah Rosciani. Da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. L'8 dicembre, festa in tutta Italia, ma noi siamo sempre qui, gli irriducibili della diretta, a tenervi compagnia anche quest'oggi, un po' perché la borsa è aperta, per cui quando il mercato è aperto Salva Danaio è sempre presente, un po' perché è ora di cominciare ad esplorare le scelte delle famiglie italiane per il regalo di Natale. Che cosa dobbiamo dire prima di tutto? Che questo Babbo Natale di quest'anno sembra avere le sembianze sempre più tecnologiche, altro che prendere il freddo sulla slitta trainata dalle renne. Speriamo in questa maniera di non frantumare i sogni dei bambini che ci ascoltano, ma magari i genitori non rimarranno più di tanto sorpresi dal fatto che ormai il regalo di Natale passa sempre di più dalla rete. Sentite queste cifre: 6 milioni di acquisti online per un valore di quasi 1,5 miliardi di euro è il valore stimato dei regali che verranno effettuati su internet quest'anno per Natale. Questa cifra è stata preventivata presso dalla School of Management del Politecnico di Milano. Viaggi, elettronica di consumo ed informatica, abbigliamento e libri, e secondo questa indagine un viaggio su 10, un libro su 13, un televisore su 15 saranno acquistati online. La panoramica degli articoli più gettonati è vastissima, comunque, oltre a televisori, smartphone, le console, libri, vini e anche abbigliamento, soprattutto donna e bambino, verranno scelti appunto attraverso il canale internet. C'è poi anche il tema del turismo, che forse merita un capitolo a parte, ma stanno andando molto bene la vendita di biglietti aerei e le prenotazioni di hotel e la scelta di destinazioni appunto per andare in vacanza attraverso il web. Le mete preferite ancora una volta New York, Londra e Parigi, ma ripeto, appunto, oggi lasceremo da parte il tema turismo per invece esplorare gli altri generi, chiamiamoli così, di consumo. Stanno andando molto bene anche le cosiddette gift card, cioè i buoni con diversi tagli di valore da spendere online sul sito presso cui sono stati acquistati. Il settore informatica ed elettronica, secondo Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano, segnerà un aumento del 20% rispetto al Natale scorso. Oggi già sento che scateneremo la rabbia dei commercianti tradizionali. Speriamo che si capisca bene che non vogliamo mettere in contrapposizione le due realtà, che ci appaiono comunque ancora molto distanti, ma solamente esplorare questa tendenza forte, nuova, che si sta manifestando, perché le famiglie scelgono di acquistare anche per questo Natale attraverso l'online, perché si fa prima, perché si perde meno tempo, perché c'è l'opportunità di risparmiare molto. Tutto quello che voi ci racconterete all'800240024, noi stamattina lo commenteremo intanto con il professor Alessandro Perego, responsabile scientifico dell'osservatorio B2C, cioè Business to Consumers, commercio elettronico di Netcom e Politecnico di Milano. Professor Perego, buongiorno, ho detto tutto? Ha detto tutto, buongiorno. Buongiorno. Abbrevierò poi notevolmente la sua carica andando avanti nella trasmissione. Edoardo Giorgetti, responsabile e-commerce di Banzai, che è in sostanza una piattaforma molto ampia che contempla numerosissime attività nell'ambito e-commerce. Questo sito praticamente gestisce l'attività di, a sua volta, praticamente siti online che permettono la compravendita di molti generi, dall'elettronica all'abbigliamento. Giorgetti, poi racconteremo anche esattamente quello che fate. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. E buon 8 dicembre. Buongiorno anche a Biagio D'Angelo, portavoce di Private Outlet in Italia. Private Outlet è il primo club privato europeo di shopping online, anche in questo caso un osservatorio che ci dà l'opportunità di confermare i numeri in crescita del popolo di coloro che fanno i loro acquisti online. C'è stato un aumento, secondo questo osservatorio, del 14% dal 2009, 1 milione in più rispetto allo scorso anno. Sono delle cifre enormi. D'Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi. E allora, io ho già ricordato il numero verde per intervenire, aiutatemi questa mattina perché la voce mi assiste un po' meglio di ieri, ma sono ancora in difficoltà, per cui a maggior ragione vorrei dare la parola a voi che ci ascoltate da casa. Andiamo agli acquisti di Natale e sentite un po' quante famiglie quest'anno hanno scelto di fare i regali di Natale attraverso il canale online. Corse dell'ultimo minuto, indecisione su cosa acquistare e quanto spendere. La ricerca del perfetto regalo di Natale è tutt'altro che un momento gioioso e di condivisione. Per la maggior parte degli italiani, il 67%, sembra piuttosto una straordinaria fonte di ansia e stress. Anche per questa ragione sono sempre di più le persone che si affidano ad internet ed acquistano i regali per familiari ed amici stando comodamente seduti in poltrona, evitando così freddo, traffico e code. Armandosi di una buona connessione e della giusta dose di curiosità, non è difficile trovare siti specializzati nei settori più vari, dai dischi all'abbigliamento, dai prodotti tecnologici ai libri. L'e-commerce si sta sempre più affermando come una nuova strategia commerciale capace di individuare mercati in netta controtendenza rispetto alla crisi. Ma è anche una nuova filosofia di shopping che sta contagiando sempre più italiani, trasformando completamente la dimensione dell'acquisto, finora prettamente fisica e basata sulla centralità del punto vendita. E quale migliore occasione, se non il Natale, per mettere alla prova una tendenza che sembra andare ben oltre la mania del momento? Basti pensare che andando a sommare le transazioni di novembre e quelle stimate per dicembre, sono attesi per il Natale 2010 6 milioni di ordini per un valore di 1,5 miliardi di euro, il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Fabio, perché non ti piaceva la canzone d'apertura della nostra scheda? Odia Natale. E vabbè, allora guarda, ti consigliamo di aprire un bel canale online, uno di questi siti di cui parliamo questa mattina, divertiti con qualche acquisto, trovati qualche bel regalo, così almeno potrai migliorare l'umore. Ovviamente Fabio Cantadori, il nostro tecnico, era sempre di ottimo umore, quindi stiamo scherzando con lui stamattina. E invece il tema di cui parliamo è molto serio, perché sta veramente registrando dei numeri incredibili di crescita. Io volevo salutare l'ascoltatore che ci scrive: le bollette care e salate da pagare, questo sarà il Babbo Natale quest'anno, tutta la nostra solidarietà a quelle famiglie che invece limiteranno notevolmente in questo Natale 2010 il budget dedicato ai regali. Ma c'è un modo anche per arginare le spese, che è quello di cui parliamo questa mattina: attivarsi appunto proprio attraverso il canale online, fare shopping attraverso internet, perdere un po' di tempo cercando ovviamente i siti più sicuri, più affidabili, e sono sempre di più. Alessandro Perego, professor Perego delle Politecniche di Milano. Un mondo che è cambiato moltissimo negli ultimi anni, che sta movimentandosi notevolmente. Peraltro in Italia il recente sbarco di Amazon ha scompaginato ulteriormente le carte e forse ha reso questo mercato ulteriormente competitivo, no? Oggi i numeri sono veramente incredibili, non tanto per i numerosi siti che ci sono attraverso i quali è possibile fare compravendita, ma anche perché i consumatori sono sempre più interessati a questo canale. Non è solo più un mondo ad appannaggio della popolazione giovane. Ma direi assolutamente di sì, anche se il dato complessivo, cioè quel 6,5 miliardi di euro su base annua che noi abbiamo misurato per il 2010, dice ancora di un fenomeno che pesa per l'1% sul totale dell'acquistato dagli italiani, quindi è ancora un fenomeno tutto sommato a cavallo tra essere un fenomeno di elite ed essere un fenomeno di massa. Diventerà un fenomeno più di massa quando saranno disponibili online in modo completo su tutta Italia anche alcune categorie merceologiche che oggi è ancora difficile comprare. Per esempio, come... che cosa manca? Ecco. Gli alimentari. Per esempio, gli alimentari comprabili in un supermercato sono ad oggi disponibili solo in certe parti d'Italia e solo da parte di alcuni pochi operatori. Allora, guardi, prima di sentire gli altri due interlocutori di questa mattina, siccome ci sarebbe piaciuto esplorare effettivamente il filone cibo, per tutta una serie di problematiche non siamo riusciti a trovare l'ospite giusto questa mattina, se ne è candidato uno da solo. Io saluto con molto piacere Emanuele Dagubbio, che è il nostro primo ascoltatore che ci chiama questa mattina, ma che in realtà fa proprio l'imprenditore, credo, in questo settore. Ha un sito che si chiama, un nome stupendo, www.magnatum.it. Emanuele, buongiorno. Buongiorno, sì, magnatumclub.it. Incredibile, che cosa fate? Ci racconti tutto. Ma diciamo che noi nascevamo come distributore di tartufo, quindi noi raccogliamo tartufo in tutta Italia e poi lo distribuivamo a wholesaler, quindi all'ingrosso. Poi abbiamo deciso di mettere su questo sito e al tartufo abbiamo anche aggiunto tantissimi altri prodotti di alta qualità, dal caviale al salmone, champagne, vini di primissima qualità, e quindi abbiamo iniziato a venderlo. Abbiamo ovviamente messo su un sito, diciamo, che possa piacere non solo in Italia ma anche all'estero, e quindi abbiamo iniziato a vendere online e devo dire che negli ultimi due anni infatti è aumentato moltissimo, questa stagione è andata molto bene, ovviamente bisogna sapere come pubblicizzarlo perché poi quella lì è la cosa più difficile. Mi scusi, però sì, questo senz'altro, quindi insomma l'azione di marketing è indubbiamente fondamentale, ma allora da quello che capisco è possibile prenotare attraverso il vostro sito anche un tartufo o comunque un quantitativo di tartufo, e per la spedizione come fate? Insomma, va in genere, immagino, sempre a buon fine, sì, insomma sempre, il settore beh, ovviamente è garantito, anche perché la legge comunque garantisce il compratore che compra online, quindi da quel punto di vista non deve avere assolutamente paura la persona né ad usare la carta di credito, perché ovviamente vengono usati dei server crittografati, nel nostro caso PayPal, che è molto sicuro, e poi i corrieri, ovviamente se poi non arrivasse il pacco, cosa che non succede mai, perché ovviamente ormai i corrieri anche in Italia funzionano molto bene ed è per questo penso che Amazon abbia aperto. Se non dovesse però arrivare, ovviamente c'è il rimborso, non, da quel punto di vista non c'è assolutamente infatti problema. E poi insomma da questo punto di vista tutte le rassicurazioni del caso ce le daranno anche i nostri altri due interlocutori di questa mattina. Solo una cosa, Emanuele, ci dica un po' per curiosità, a Natale avete avuto prenotazioni in forte crescita, c'è chi sta scegliendo specificatamente il tema alimentare per così un po' fare dei regali magari originali quest'anno, o si cerca, vabbè, voi magari fate vendete tartufo, quindi non è esattamente un articolo a sconto, è abbastanza particolare come regalo, ma per Natale vi hanno scelto in molti? Ma sì, le hanno scelte in molti, ma in verità nel nostro sito si possono trovare anche cose che costano meno, tant'è che abbiamo messo anche proprio delle gift card in modo da lasciare alla persona poi la libertà di poter scegliere quello che vuole. Le gift card vanno dagli 8 euro poi ai 150, che vabbè, per diciamo quelli che possono permettere un po' di più, però diciamo che abbiamo anche piccoli, dai sali particolari a delle spezie che non si trovano. Benissimo, in le abbiamo fatto fare anche noi una bella pubblicità questa mattina, poi ci dica insomma come è andata, se i contatti sono aumentati sul vostro sito. Grazie Emanuele, buona giornata. Sì, grazie, a presto. Professor Perego, ha sentito, insomma qualcosa si muove anche nel settore alimentare, anche se si fa un po' più di fatica, è un settore ancora un po' meno esplorato. Assolutamente, il problema è quando si potrà comprare online anche la carta igienica, l'acqua minerale e i prodotti di uso quotidiano. E infatti, allora, quindi un mondo che cambia, però ci racconti qualcos'altro di questo osservatorio, anche se molte indicazioni non le abbiamo già date nelle anticipazioni della nostra trasmissione, nell'introduzione nella nostra scheda. Comunque è ancora l'elettronica il grande settore che movimenta di più tutto il commercio online, o mi sbaglio, c'è qualcosa di nuovo quest'anno? Allora, se escludiamo il turismo, come abbiamo detto all'inizio, che comunque pesa per il 50% del valore del commercio elettronico, le principali categorie di prodotto sono assolutamente l'informatica e l'elettronica in prima posizione, e in secondo l'abbigliamento. L'abbigliamento sta crescendo tantissimo, a tassi del 40-50% di anno su anno negli ultimi 3-4 anni, e quindi è diventato prepotentemente il secondo settore per importanza. Poi seguono i libri e i prodotti editoriali, e ben ultimo il grosso, cioè l'alimentare. No, tra l'altro la cosa dei libri è anche molto interessante, perché sempre nel vostro osservatorio leggevo che per il momento sono molto acquistati e quindi anche regalati proprio libri tradizionali, anche se è partita in occasione del periodo natalizio la vendita degli ebook, professor Perego. Certo, è partito nel periodo natalizio con un po' di ritardo rispetto agli Stati Uniti, la vendita di ebook è un fenomeno sicuramente in forte esplosione, stiamo a vedere insomma quanto il consumatore italiano avrà piacere di leggersi un libro su un supporto non tradizionale, diciamo, quindi quella è una sfida. L'offerta inizia in qualche modo a essere significativa. Esatto, anche poi tra l'altro stiamo assistendo a degli anni in cui le cose cambiano talmente tanto rapidamente che magari il prossimo anno ci ritroveremo a parlare dello stesso argomento con gli ebook, i grandi protagonisti delle compravendite online e dei regali di Natale, chissà come andrà l'anno prossimo. Biagio D'Angelo, Private Outlet in Italia, parlavamo della grande novità rappresentata dalla compravendita dell'ambito dell'abbigliamento appunto attraverso il canale online, quindi anche questo settore che si è cominciato ad esplorare da parte dei consumatori italiani in tempi abbastanza recenti. Ci racconta un po' il vostro osservatorio che cosa dice, soprattutto che cosa vi siete inventati per attirare i consumatori sul vostro sito, promozioni aggressive, offerte commerciali imperdibili, che cosa succede? Beh, innanzitutto direi che il tema della convenienza e dell'accessibilità di determinati brand, anche di determinate griffe di lusso su Private Outlet, è una delle ragioni di questa grossa crescita che è tutto il fenomeno del commercio online, del settore dell'abbigliamento, degli accessori, delle scarpe ha vissuto. il fatto di poter trovare su un sito come Private Outlet brand importanti con sconti del 60 o del 70%. Infatti le griff più note, che magari in tempi normali sono inavvicinabili, insomma spulciando fra le vostre offerte si possono trovare degli sconti incredibili, come fanno anche molti altri siti. Come fate, tra l'altro? Ce lo racconti un po', D'Angelo? Considerate questa cosa, che tutte le grosse aziende, le grosse marche hanno bisogno, ma anche quelle meno importanti dal punto di vista del posizionamento, hanno la necessità regolarmente di effettuare degli stock senza ovviamente nuocere alla propria immagine e senza ovviamente nuocere anche ai circuiti di distribuzione tradizionale cui normalmente si affidano. Un soggetto come Private Outlet si va a porre come interlocutore di queste aziende, da un lato quindi andando a sviluppare e a risolvere sostanzialmente il problema dello stock che necessariamente si viene a creare nell'ambito di un'attività di distribuzione commerciale, dall'altro andando anche a porre un vantaggio in termini anche di comunicazione, perché per un'azienda di lusso, anche un'azienda che magari vuole lanciare un nuovo brand, un luogo come il web, soprattutto che propone un panel di riferimento così ampio, considerate che soltanto in Italia ci sono 1 milione di soci su Private Outlet e sono quasi 4 milioni in tutta Europa, diventa un grande vincolo, un grande veicolo di comunicazione, per cui porsi come interlocutore di questo, in questo sistema, diventa di grande convenienza anche in termini di comunicazione. Comunque, questo lo chiedo ad Edoardo Giorgetti, responsabile e-commerce di Banzai. Il tema è anche, non so se mi sbaglio, che le grandi griff hanno scelto in qualche maniera anche di voler intercettare una fetta di consumatori che magari hanno un po' meno disponibilità economica, e rendere accessibili anche delle grandi marche a questa fetta di consumatori forse era possibile solo attraverso il canale online, non lo so. Le griff hanno scelto questa metodologia di distribuzione anche per questo motivo, Giorgetti? Beh, sicuramente sì, nel senso che l'e-commerce consente alle griff di raggiungere intanto un target diverso da quello che raggiungono normalmente, poi con i club, diciamo, di vendite su invito, come saldi privati, esatto, o private, sì, outlet e altri, diciamo che possono gestire dei prodotti che sono in una fase finale della loro vita, non sono più le novità in generale, sono dei prodotti che nell'arco di qualche mese si troveranno negli outlet o più avanti nel tempo addirittura, diciamo, nei canali meno ufficiali, no? Quindi i mercati, eccetera. Quindi c'è la possibilità di comprare un prodotto che è ancora perfettamente nuovo, che, diciamo, si trova ancora nei negozi, a un prezzo che può essere scontato fino al 70-80%, quindi molto significativo, e per la marca è un modo comunque per non rovinare la propria immagine, perché l'ambiente è totalmente protetto, cioè la comunicazione è di alto livello, i clienti sono profilati, è un canale che mescola il controllo che interessa alla marca con il vantaggio economico per il consumatore finale. E infatti volevo sentire prima di Alberto e del suo viniamo.it, e quindi siamo molto curiosi di sapere come sta andando anche questa attività, Marcello da Catania. Volevo andare prima al sud Italia. Marcello, buongiorno. Salve a tutti. Ci racconti un po', allora, lei è un avventore del canale internet molto frequente e soprattutto ha scelto questo canale per i suoi regali di quest'anno? Allora, io sono appunto un avventore molto frequente per due semplici motivi. Uno, per la stragrande varietà di prodotti che si possono acquistare, comunque valutare in diretta. E due, perché purtroppo vivo in una città dove, ahimè, l'organizzazione urbana lascia desiderare e quindi mi scoraggia ancora prima di pensare di andare. A Catania è così problematica circolare. Purtroppo sì, se uno decide di andare al centro storico perché magari vuole visitare qualche negozietto tipico, e allora zona traffico limitato, strade interrotte, parcheggi inesistenti. Se uno decide di andare nella zona commerciale, ancora peggio, perché parcheggi non si trovano, i centri commerciali, ahimè, offrono quello che noi bene o male sappiamo, se entri per il formaggio esci col televisore, quindi comunque una quantità di prodotti abbastanza, cioè non c'è assistenza da parte del personale, quindi comunque dico fondamentalmente dal mio punto di vista decido di fare gli acquisti online per una questione di comodità, perché appunto evito lo stress cittadino. Quindi insomma lei è la comodità, la prima qualità che riscontra nel praticare l'e-commerce. Grazie Marcello. Tra l'altro, Edoardo Giorgetti, riprendo da lei perché prima le ho fatto fare la risposta più breve. Avete mai pensato anche a questo risvolto, cioè che magari attraverso la vostra attività si potrà abbattere notevolmente l'inquinamento, perché la gente si sposta un po' meno con le auto, pratica meno i centri commerciali e quindi addirittura miglioreremo la qualità della nostra vita da questo punto di vista, non solo nel risparmio di tempo e di denaro? Direi proprio di sì, nel senso, addirittura negli Stati Uniti alcuni siti iniziano a indicare quanto si risparmia con l'e-commerce in termini di come si chiama, carbon footprint, no? Incredibile. Di carbone. In realtà comunque il cliente che ha appena telefonato ha stressato molto il fatto della comodità e dell'ampiezza di gamma, e in effetti è un po' il segreto vero di chi fa già e-commerce. Si parte di solito dal prezzo, ed è normale, chiunque cerca un prezzo più basso, e online i prezzi sono mediamente più bassi che offline in generale. Ma la cosa poi che sorprende i clienti è il fatto che online trovi di ogni prodotto moltissime varianti, e in generale trovi anche dei prodotti che non sai neanche dove andare a comprare offline, perché non hai idea di dove li vendano. Per esempio in ePrice noi abbiamo circa 40.000 prodotti a catalogo solo di high tech, e invece un centro commerciale anche di grandi dimensioni di solito ne ha 8-10.000, quindi è più di 4 volte. Ora, in che cosa poi si sostanzia questa varietà? Se uno cerca un televisore, per esempio, tipicamente in un centro commerciale o in un negozio che vende questi prodotti troverà N modelli, ma non tantissimi, delle varie marche, delle varie dimensioni. Online invece puoi scegliere qualunque parametro ti interessi, per esempio se dici voglio un 32 pollici con una certa risoluzione, con una certa grafica, quello che vuoi tu, sostanzialmente puoi scegliere tra decine e decine di modelli. Il vantaggio è per esempio di potersi procurare un televisore che ha un ingresso in più in alta risoluzione, oppure delle caratteristiche che non trovi facilmente nei negozi. Capisco. In molti altri casi poi si va nel negozio, si trova quello che si vuole, ma magari non è disponibile, è l'unica cosa che c'è, quello esposto, e quindi insomma in qualche modo è usato. Invece online tendenzialmente moltissime persone vanno nei negozi, si informano, guardano eccetera, e poi quando tornano in internet trovano esattamente quello che cercano. Infatti, ecco, tra l'altro questa è una procedura che avevamo suggerito anche in un'altra puntata dedicata a questo argomento. Dicevo così, magari fatevi un giro per negozi, scegliete quello che più vi interessa, poi magari cercate di individuare se c'è un canale online che vi permette rispetto al supermercato piuttosto che al centro specializzato di ottenere qualche risparmio. Non dico che sollevazione popolare che avevo creato, e probabilmente la creiamo anche questa mattina. Vabbè, tra l'altro, a proposito del risparmio dal punto di vista ecologico ed ambientale, Dominique da Caserta ci scrive: sì, vabbè, però intanto si spostano i camion per la logistica, però magari in proporzione questi potranno rappresentare, che ne so, uno spostamento che inquina meno. Non lo so, comunque dai, adesso non vorrei toccare l'ambito inquinamento che non c'entra niente stamattina, avevamo solo dato un tocco di folklore alla trasmissione. Biagio D'Angelo, Private Outlet in Italia. Le giro una domanda di un ascoltatore, di Massimo da Desenzano, che ci scrive: in caso di acquisto di abbigliamento, se si volesse cambiare taglia o capo, perché ovviamente arriva il capo a casa, non è esattamente quello che avevamo pensato guardandolo dalla fotografia, perché può cambiare, no? Magari proprio banalmente la tonalità del colore, piuttosto che, sa, anche tra taglia e taglia, da una marca ad un'altra, qualche volta si cambia anche di un centimetro, e magari una 44 sta bene di una certa marca, di un'altra marca invece non entra assolutamente. Insomma, la restituzione del capo stesso, come si fa, come funziona in questo caso? C'è almeno per quello che riguarda voi. Ecco. C'è da parte di Private Outlet assolutamente, perché questa è una delle prime regole per in termini di trasparenza e di serietà, la possibilità di sostituire il capo con una taglia diversa, o addirittura laddove appunto non ci fosse una soddisfazione da parte del cliente rispetto a quel capo, a quel prodotto, la restituzione con la restituzione del denaro, quindi con il rimborso del denaro. Quindi questo da parte nostra è ovviamente una regola fondamentale. E infatti, come peraltro per tutti, certo, per tutte le piattaforme, perché tra l'altro, professor Pelego, oggi hanno raggiunto una qualità del servizio davvero, che hanno ormai consolidato la loro esperienza, credo ineccepibile da questo punto di vista, sia per quello che riguarda i tempi e i costi di consegna, la gestione dei resi, come diceva anche appunto D'Angelo poco fa. Quali sono secondo lei gli altri aspetti qualitativi che le piattaforme, anche quelle che ormai hanno una storia consolidata nel nostro paese, devono aggiungere? Ma insomma, intanto diciamo che il tema della logistica, dei tempi di consegna, è sostanziale. Noi abbiamo misurato confrontato l'Italia con gli altri paesi europei da questo punto di vista, per vedere se la logistica fosse effettivamente un problema per l'Italia, come molti sostengono. La logistica non è un problema per l'Italia, sia i costi che i tempi di consegna sono allineati con gli altri paesi europei e anche con gli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista già si sono fatte molte cose, l'ingresso di Amazon lo dimostra. Mm-hmm. Amazon è entrato perché c'erano anche le condizioni logistiche per poter consegnare in tempi rapidissimi, come Amazon promette. La seconda cosa sostanziale è proprio la gestione dei resi, cioè il tema del non poter toccare un prodotto e quindi del doverlo in qualche modo ricevere a casa, provarlo, toccarlo, vederlo, metterlo in funzione e poi accorgersi magari che non va bene, volerlo restituire, deve essere una cosa fattibile in modo non costoso ed estremamente rapido, e quindi i migliori siti questo lo consentono. Un'altra cosa fondamentale è la velocità con cui uno può condurre il processo di acquisto. Velocità e ricchezza di informazione, le due cose devono andare di pari passo, ma la velocità è importante, in pochi clic uno deve poter comunque concludere il processo di acquisto e quindi diciamo quello che normalmente si dice essere un po' la navigabilità in qualche modo del sito di e-commerce. Lo dico a Federico da Modena, che voleva anche lui intervenire un po' contestando la questione dell'andare a visionare magari i generi che si vogliono acquistare da un negoziante tradizionale e poi scegliere l'online. Io per esempio per l'abbigliamento voglio dire, mi piacerebbe anche molto risparmiare e comprare qualche bella griff sul canale online, ma siccome sono alto 1,80 m, ho un fisico particolare, non in genere faccio fatica ad avventurarmi sul canale online, perché mi è capitato che mi arrivasse il capo che non mi sta bene, quindi è chiaro che io devo preferire, per il tipo di attitudine al consumo che ho, il canale normale, perché devo provare. Quindi non è che è in assoluto una regola di comportamento che deve andare bene per tutti quella che ho indicato, è un suggerimento. Professor Perego, ho detto una cosa così terribile? No, ho detto una cosa giustissima. Intanto però volevo precisare due o tre cose. Ecco. Allora, intanto sono molti di più in questo momento i consumatori che fanno il percorso inverso, cioè che cercano informazioni online e poi vanno ad acquistare nei negozi fisici. 24 milioni di italiani, se non ho capito male i dati vostri di Netcom. Assolutamente, cioè è chiaro che in questo momento sono molti di più i navigatori su web che non gli acquirenti sul web, quindi sono molti di più quelli che fanno il percorso contrario a beneficio in realtà dei canali tradizionali. Secondo, più della metà dei negozi di e-commerce hanno dietro comunque dei soggetti tradizionali, quindi sono in realtà dei commercianti tradizionali che aggiungono anche il canale del commercio elettronico. Bene. Terza considerazione è il fatto che conviene comunque cavalcare questo nuovo canale piuttosto che averne paura, come si vede anche nell'ambito un attimo dei giornali online, conviene ai giornali cavalcare il fenomeno dell'online piuttosto che subirlo. E infatti, anche perché comunque andremo verso quella strada, voglio dire, le nuove generazioni praticheranno sempre di più questa modalità appunto di compravendita, ma è normale, perché basti vedere quello che succede appunto nell'ambito tecnologico, le rivoluzioni che abbiamo giorno dopo giorno, cioè il mondo si muove in maniera molto più veloce di quanto non accadesse 50 anni fa, per cui a queste rivoluzioni e che arrivino in maniera così repentina ci dobbiamo abituare. Alberto da Milano, e allora lei è stato talmente bravo a cogliere le nuove tendenze del mercato che pure il vino vende online senza alcun problema. Sì, ovviamente i problemi ci sono, perché il mercato cresce piano piano, per cui bisogna seguirlo piano piano, però la crescita è comunque importante, anche se sono numeri inizialmente piccoli, insomma si cresce anche del 10-20% mese su mese. Noi siamo molto giovani, abbiamo cominciato l'anno scorso e abbiamo pensato di fare una proposta un po' diversa dalle altre, cioè dando per scontato ovviamente la parte di risparmio, di comodità, che sono prerogative essenziali. Però abbiamo voluto aggiungere, grazie anche al fatto che ci occupiamo di vino, un aspetto che è quello proprio della possibilità di coltivare una passione, perché il vino per molti è una passione, è un divertimento, è un piacere. Quindi abbiamo cercato di fare un sito un po' diverso, cioè dove c'è anche un'esperienza un po' più completa, anche un po' che cerca di replicare per quanto possibile quella materiale, che è il piacere di tanti appassionati di vino di andare in un'enoteca, di guardarsi le bottiglie. Noi abbiamo fatto un sito dove appena si entra si è davanti a un muro immenso, quasi infinito di bottiglie, si vedono tutte quante fotografate una per uno e messe un po' come si mettono in un'enoteca. È stato quindi molto difficile avviare un'attività di questo tipo, Alberto? Beh, prima parzialmente un po' insomma difficoltà ce l'è, perché siccome il professor Perego del Politecnico di Milano ci diceva che ancora il tema alimentare è difficilmente praticato anche da imprenditori che potrebbero essere eventualmente interessati ad un ambito di questo tipo. sì, beh, certo, alimentare è un pochino più complicato. Poi il vino ovviamente è ulteriormente complicato perché il trasporto, siccome è pesante il vino, il vetro, quindi c'è anche un costo di trasporto che incide, quindi può essere anche una barriera in questo senso. E poi appunto c'è l'altro aspetto che il piacere dell'acquisto del vino è un po' diverso da quello dell'alimentare, mm-hmm. che è un po' più o meno sempre lo stesso, un po' routinato, quindi quello potrebbe essere anche un vantaggio in più per l'e-commerce, perché tanto si sa quello che si va a acquistare e si conosce. Il vino invece c'è un po' il piacere ogni volta di sceglierselo e quindi di guardarselo, di girare la bottiglia, l'etichetta, chiedere all'enotecario, a tutte cose che su internet è più difficile fare. Certo. Però se ci si prova, ecco, si fa un passo avanti. Noi benissimo. Alberto, la ringrazio. Devo salutarla perché le ho dato già troppi minuti, nel senso che mi stanno correndo via di mano, quindi vorrei sentire anche altre testimonianze. Però volevo tornare un attimo ad Edoardo Giorgetti di Banzai, perché tra i siti che gestisce questa loro ampia piattaforma c'è anche gioie.it, ma anche il gioiello si riesce a vendere con totale sicurezza attraverso il canale telematico? Ed è una via che viene molto praticata dai consumatori? Dunque, diciamo che i gioielli sono tra i settori meno presenti online in generale, anche negli Stati Uniti, che sono il paese più avanzato. Uno degli attori più grossi negli Stati Uniti vende soprattutto diamanti, che per la loro caratteristica sono tutti codificati, sono sicuri da trattare perché non hai il tema del falso e quant'altro. Nel caso di gioie, noi abbiamo interpretato il mercato più che altro su grandi su marchi che sono abbastanza noti, non li cito per ovvi motivi, ma sono quelli che si trovano in giro, quindi è una gioielleria, diciamo, molto pratica, no? Molto legata al marchio che la crea. E poi invece anche all'artigianato, sono due mondi molto diversi. La complessità del gioiello è ovviamente quella di tendenzialmente di provarlo, quindi i prodotti che vanno per la maggiore sono quelli che la gente ha già conosciuto, magari che hanno gli amici, di cui quelli di marca, oppure i prodotti artigianali che sono tra virgolette più semplici, quindi il solitario o l'anello, l'orecchino, eccetera, di una forma, diciamo, classica, tradizionale. La sicurezza è totale, nel senso che la spedizione è totalmente Non assicurata. Viene fatta attraverso, immagino, proprio la posta, il postino? No, in generale i siti e-commerce italiani tendono a usare i vettori privati, quindi i corrieri, quelli che vengono chiamati corrieri espressi. Nel caso del gioiello è prevista un'assicurazione in più. Certo. Va però detta una cosa, questo è a beneficio di tutti. Se il pacco si perde prima che arrivi a destinazione del cliente, il problema è di chi lo vende, non di chi lo acquista. Quindi al di là del fastidio, che ovviamente uno aspettava il prodotto e non lo riceve, succede in una percentuale minima, sotto l'1%, ma molto sotto, però anche in quel caso il cliente non ha nessun problema. Questo in generale è la regola nell'e-commerce, cioè se uno cambia idea può restituire, se il prodotto arriva rotto, danneggiato o non arriva, il problema è di chi l'ha venduto, non di chi l'ha acquistato. E quindi in generale la sicurezza è totale alla fine, nel senso che è interesse di chi vende assorbire tutti questi problemi. Quando, Giorgetti, il problema diventa a carico invece di chi ha acquistato, quando la merce non va bene per il consumatore? Ma io direi che non c'è mai questo caso, nel senso che si hanno 10 giorni per cambiare idea. Perfetto. E non vengono chiesti domande sul perché questa cosa avvenga. Il cliente ha diritto di restituire il prodotto in qualunque caso, non deve dare delle giustificazioni, deve solo dire non lo voglio più. Verrà rimborsato e quindi riottieni i soldi che ha speso. Chiaramente in condizioni, nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuto, possibilmente appena scartato. L'unica cosa è un po' come quando si compra in un negozio di fiducia, se glielo riporti utilizzato, certo, sporco, eccetera, insomma farà qualche ovviamente. No? Allora devo dare tra un po' la nostra pillola delle parole della previdenza, però 10 secondi al professor Perego li voglio ancora concedere prima di salutarci. Professor Perego, gli irriducibili del canale tradizionale, quelli che proprio non si vogliono avvicinare alla compravendita online, non lo fanno per quale motivo? Solo per il problema che hanno il timore che per esempio il codice della carta di credito venga clonato e copiato? Quali altre resistenze ci sono? Ce la fa in 20 secondi? Sì, assolutamente. Allora, i problemi sono essenzialmente il rischio frode carta di credito, che ovviamente è una cosa che non esiste, e altri problemi legati in qualche modo alla mentalità e alla cultura. Quindi non lo faranno ancora per un po', ma dovranno farlo quando i loro figli inizieranno a ritenere del tutto normale fare acquisti su internet. IMPS, per saperne di più. effettivamente abbiamo fatto uno stacchino un po' brutale dall'e-commerce alla previdenza, ma questa è la rubrica che è partita da ieri, a Salvadanaio, ve la proporremo fino agli inizi di marzo in collaborazione con l'INPS, le parole per chiarire tutta la terminologia della previdenza, spiegarcele anche oggi il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, e la parola che abbiamo scelto oggi è speranza di vita. Nel prossimo futuro sarà necessario valutare l'andamento della speranza di vita. Dal 2015 verrà infatti applicato un nuovo modello che varierà gradualmente l'età della pensione di vecchiaia in rapporto con l'andamento della speranza di vita determinata dai dati ufficiali di ISTAT. Con questo meccanismo l'età minima per la pensione di vecchiaia salirà di 3 mesi ogni 3 anni. Quindi se l'incremento della speranza di vita dovesse continuare con l'attuale trend di crescita, nel 2050 la pensione di vecchiaia salirà a 69 anni e 4 mesi per gli uomini e 64 anni e 5 mesi per le donne. L'aumento previsto in fase di prima applicazione non potrà comunque essere superiore ai 3 mesi. E allora, questo era il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, con le nostre parole della previdenza. Io non riesco ad andare avanti nella nostra trasmissione perché il tempo è naturalmente scaduto. Mi sarebbe piaciuto affrontare con Biagio D'Angelo di Private Outlet le categorie che hanno individuato degli shopping lovers italiani. Ci sono gli irriducibili, quelli un po' più leggeri, addirittura quelli che si meritano l'aggettivo di royal o gold shopper. Insomma, un tema molto affascinante, magari ci ritorneremo più avanti per capire come è andata dopo Natale, insomma quanto si è movimentato questo settore. Grazie ad Alessandro Perego, Edoardo Giorgetti e Biagio D'Angelo per essere stati con noi, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, a Rudy Cantadori per l'assistenza tecnica. Noi ritorniamo anche domani. Buona giornata a tutti.